l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato mattina, inizio del fine settimana, sabato 14 maggio, auguri a chi si chiama Mattia, oggi è San Mattia, sono le 10:07 primi e 30 secondi, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, io e Oscar Giannino ovviamente che vi ringrazia, ma vi ringrazio insieme ai compari dei conti della Belva, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Renato Cifarelli, il nostro imprenditore di squadra, ci raggiunge telefonicamente poi. Allora, come sempre, diciamo di che cosa parliamo oggi, per invitarvi a telefonare all'800240024 e per le opinioni, lo sapete, come sempre il numero eterno dell'SMS di Radio 24 è 349-238-6666, per chi può WhatsApp, per chi può, non può, no, ma noi comunque vediamo tutto e naturalmente ci beiamo dei vostri commenti, richieste e colorite. Insomma, colorite. Ci beiamo, diciamo. Colorite, vabbè. Prendiamo atto, ci nutriamo casi. Così. Prendiamo dai, atto. Su, gufetti, gufetti, siamo gufetti allegri noi. Siate creativi. Ecco, siate creativi, dateci delle variazioni rispetto a... Allora, di che cosa parliamo? Parliamo, innanzitutto facciamo il punto, come sempre, sui nuovi numeri della crisi. Ieri c'è stata i dati del primo trimestre del PIL in Italia, nell'euroarea, e quindi vedremo se il dato italiano è in linea o no con le aspettative e gli obiettivi del governo, è in linea o no con gli andamenti dell'Europa, no, tanto per iniziare a essere chiari, ma e chi traina e perché l'euroarea, anche questo ha la sua importanza, come vanno i prezzi, e insomma mi pare che questo qui, questo grande obiettivo non lo stia ottenendo da questo punto di vista, però insomma facciamo un po' il punto su questo. Dopodiché abbiamo due blocchi di questioni. Il primo blocco riguarda, lo faremo queste tre prossime settimane prima del voto amministrativo, abbiamo deciso di dedicare mezz'ora ogni volta ai conti di una delle tre maggiori città in cui si vota, e quindi cominciamo da Roma, dalla maggiore, i conti di Roma Capitale. Cari cittadini di Roma, io voglio chiedervi insieme a tutti noi della squadra dei conti della Belva se avete capito che i conti di Roma chiedono più che un nuovo sindaco Mandrake, praticamente, perché ci interrogheremo con chi ha guidato la commissione bipartisan di studio sui conti di Roma, però un'occhiata a un bilancio, al bilancio di Roma, un'occhiata non basta, servono molte ore, vi posso garantire avendolo fatto, restituisce una impressione di disastro, a mio giudizio pressoché irreparabile, perché vi dico solo che su poco più di 5 miliardi di entrate, quasi il 67% nell'ultimo anno sono solo trasferimenti e entrate. Roma è da anni incapace di farsi pagare tasse, canoni, eccetera, eccetera. C'ha più di 7 miliardi di arretrato solo su questo, con 5 miliardi di entrate, 7 miliardi di arretrato, per darvi l'idea. Rimane con quasi 14 miliardi di debito e dall'anno prossimo, tra pochi mesi, inizia a non avere il flusso di cassa per gestirlo anno per anno. Questo malgrado mezzo miliardo di euro che tutto l'anno noi diamo a Roma per le rate di ammortamento, e c'ha le municipalizzate Atacama più scassate d'Italia. Quindi tenteremo di parlarvi di questo per capire come e se si può venirne a capo, oppure se non c'è l'alternativa che battere cassa al governo nazionale di nuovo, ed è quello che io, devo dirvi la verità, visti i numeri, temo tragicamente. Dopodiché ci faremo una riflessione su la riforma che è andata in porto questa settimana col voto di fiducia, cioè quella delle unioni civili. E ci sono due punti. Il primo: ma era così giusto, per fare un passo avanti atteso da anni, introdurre così nuove disimmetrie di diritti e di tutele tra unioni civili, tra omosessuali e le convivenze tra eterosessuali? Perché non so se ci avete fatto caso, ma veramente sono moltissime le disimmetrie, cioè, come volevo dire, gli svantaggi. E poi, quanto costa davvero, conti pubblici alla mano, il regime delle unioni civili, soprattutto su alcuni punti come la reversibilità delle pensioni? Ecco, parleremo di questo. Naturalmente sullo sfondo c'è come sempre tutto il problema italiano, quindi chiamateci anche per le unioni civili. Il problema italiano, c'è la sentenza del caso Thyssen ieri, ci sono i partiti che esplodono e ci sono tante cose che naturalmente oltre a queste colpiscono i nostri compari e li fanno riflettere. Tipo questa settimana, oltre a questi argomenti, Mario? Ma ho letto l'intervista a Repubblica di Alfio Marchini, giusto per parlare di Roma, dove ha detto che diciamo lui intende portare lo stipendio minimo dei dipendenti del Comune di Roma a 1500 euro al mese, perché di meno non ce la si fa, e pertanto costerebbe solo 60 milioni, ha detto. Per cui questa è una sorta di reddito minimo garantito, però limitato ai dipendenti del Comune di Roma. Quindi mi pare sicuramente interessante. Altro, stamattina a Omnibus, la 7, c'era Marchini particolarmente nervoso, forse dagli interlocutori, non so, che ha detto: ma lei questa cosa come la finanzierebbe, altre cose? E ha risposto: beh, bisogna chiedere ai dipendenti di impegnarsi. Sostanzialmente il concetto è questo, perché impegnarsi genera produttività, che genera reddito, e quindi si autopaga tutto da solo. Poi altro punto molto volante, vabbè, banale, abbiamo visto il preavviso di licenziamento del sindaco di Parma con una mail della direzione aziendale, perché come avete notato, per ribadire diciamo l'eredità paterna della linea dinastica, pare che ci sia quella Casaleggio, esatto, pare che sia proprio l'erede del fondatore che si sia fatto parte diligente, abbia mandato la mail con il preavviso di licenziamento. Non lo sapremo mai, più o meno, perché tanto lì è una situazione dove sono prossimi, secondo me stanno già incubando i germi dell'autodistruzione, però almeno ci divertiremo. Tra l'altro mi viene da ridere perché Pizzarotti ha detto: ma se dovessimo assumere delle responsabilità governative in caso di tensioni internazionali, cosa facciamo? Buttiamo Putin fuori dalla chat? Per cui questo è abbastanza divertente. Questi sono, secondo me, i punti abbastanza sfiziosi di questo sciagurato paese. Caro Alberto. Mi aggiungo anch'io alle osservazioni critiche di quello che è successo ieri, perché è proprio in previsione di elezioni a Roma che danno il Movimento 5 Stelle in prima posizione. Noi dobbiamo preoccuparci come cittadini di un principio di trasparenza, questa sì, no? Di Stato di diritto, questo sì, di... come dire, di un principio semplicissimo di garantismo, questo sì, che non stiamo vedendo, anzi stiamo vedendo eredità familiari poco trasparenti, prese di decisioni di inclusioni o esclusioni completamente opache. È preoccupante, Oscar, perché non è un segnale di rispetto delle istituzioni repubblicane. Cioè, uno può avere le idee che vuole, ma sulle regole e sulle norme non si può transigere. E proprio chi fa del rispetto delle regole, dell'onestà conclamata la sua bandiera, dovrebbe impegnarsi a essere estremamente trasparente. Quello che è successo ieri è un atto gravissimo e che danneggia la credibilità di tutti, perché un sindaco è un'istituzione della Repubblica, non può essere trattato così in maniera del tutto arbitraria. Quindi io sono particolarmente arrabbiato proprio in previsione delle elezioni amministrative. Ma io vi dirò che se dovessi giudicare e mi chiedessero: ma qual è il livello più basso o meno rovente delle polemiche? Quelle interne al Movimento 5 Stelle, a cui avete appena fatto riferimento? Quelle tra Lega e Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia dall'altra? Quelle interne al PD, che sono roventi pure loro? Ma francamente non saprei cosa rispondere, mi sembra un quadro abbastanza devastato, vedremo. Vi dirò che questi giorni mi hanno colpito i colpi di coda ancora della questione bancaria e Atlante. In particolare ieri mi ha colpito questo articolo di Federico Fubini, non ha colpito solo me, ha colpito in tanti, sul Corriere della Sera, nel quale si chiedeva... Ci colpivamo a vicenda, esatto. Impugnavo una copia del Corriere e stavo colpendo tutti. Partivano delle sassate ieri mattina. Cioè, chiedersi con questo tono così, come? Voi siete gli specialisti del debito pubblico italiano, fate tante soldi, e poi non date una mano all'Italia, cos'è che non vi convince? La determinazione del governo italiano è ferrea, deve convincere. Allora, il sottinteso era: c'è un complotto. Ecco, questa è una cosa che vederla su Corriere della Sera ci fa un po', ecco, per così dire, tra il sorridere e l'allarmare. Non lo so, se non basta che in questo trimestre le prime 8 banche italiane abbiano fatto risultati per 1,1 miliardi inferiore a quelli dell'anno scorso, per tante ragioni, ce ne occupiamo sempre, tutte le volte. Se non basta che i numeri fin qui illustrati di Atlante appaiono smisuratamente ambiziosi rispetto ai mezzi e così via. Cioè, sono banali considerazioni che secondo me noi dovremmo fare. Poi questo comunque continua a dare l'idea di quale sia il ritmo che il MEF e la Banca d'Italia vogliono che si suoni nell'informazione italiana. Tum, tum, tum, tum. Come nelle galere si faceva quelli ai banchi. Ecco, i giornalisti sono richiamati dai capi galea, cioè quelli che danno sul tamburo, boom, boom, il ritmo, e che richiamano tutti. Mi dispiace Federico Fubini, ma io ti ho visto un po' così ieri, e siccome ti conosco, ti stimo tantissimo, probabilmente sbaglio io a pensarla così, però non riesco proprio a mettermici nei panni di quelli che devono fare queste cose, come quelle ieri del ministro Padoan che ha tenuto la conferenza stampa alla Luis, che non si poteva scrivere quello che diceva a favore delle banche, un'altra perla da regime autoritario. Stiamo diventando il Kazakistan, cioè le banche si fanno le loro regole anche nelle conferenze stampa. Il MEMF, che doveva forse imbarazzato dal fatto che la conferenza stampa era un elogio delle banche italiane, allora forse per questo non voleva che si scrivesse. Però questo è ciò con cui abbiamo a che fare, cari ascoltatori, e non è molto piacevole, a dirvi la verità, non è molto piacevole. È nato ieri in tarda serata la notizia, il nuovo fondo volontario del sistema BCC, certo, BCC, che dovrà ristrutturarsi entro 18 mesi. Benissimo, quindi ormai è un florilegio di iniziative con qualche spicciolo di milioni, se mi consentite, perché quello di ieri, la dotazione pare che sia 300 milioni, in cui le banche che vanno meglio devono dare a chi le banche che vanno peggio, loro alla patria, cerimonie all'altare della patria, pepepe, trombette, pipipi, tutti per l'Italia contro il mondo. Vedremo, appena riprendiamo tra un minuto, gli andamenti veri del nostro paese rispetto al mondo, e vediamo se sono i cattivi stranieri che non capiscono, siamo noi che abbiamo numeri, forse un po' da correggere. Comunque, questa è la nostra opinione. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta con il compare dei conti da Belva. Sigletta, di a che punto sto siamo? Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Ma che crisi ragazzi, il PIL, sì, caro Mario, più 0,3%, stappiamo lo champagne o no? Sì, sì, ma insomma, cioè, l'Italia è tornata a crescere la metà del passo dell'Eurozona. Per cui, cioè... Vabbè, cioè è una piccola inversione di tendenza, diciamo, rispetto a 04, 03, 02, che era il conto alla rovescia prima della mezzanotte. Dei trimestri precedenti. Esatto, adesso siamo a più 03, chiaramente l'Eurozona ha fatto più 06. Molto robusto il dato della Germania, più 07. Come commentavo ieri su Fastidio, la Germania conferma una crescita spinta inequivocabilmente dai consumi privati. Ma come si permette? È una cosa, guarda, signora mia, dove andremo a finire di questo passo? Dai, la Germania cresce per consumi tutti privati. Che cresce sull'esportazione, succhiandoci il sangue. Le esportazioni hanno sottratto crescita, come già avviene da un paio di trimestri. Poi i metalmeccanici della IG Metall hanno preso un aumento del 4,8% in 21 mesi. In precedenza. E se lo merita, esatto. Diciamolo. Però sai perché? Perché loro hanno i mezzi per fare questo. E noi no. A noi praticamente ci fanno fare la fame. Questo è già il commento che sentirò in giro. Dopodiché nel 2015 i consumi privati... No, aspetta, ribadisci. Sì. Cioè, sotto l'uomo dell'ironia, Mario, no, esatto, vi sta facendo notare... Io non vi do più il preavviso di quando sono ironico, esatto. Sono problemi vostri. Tocca interpretare che da trimestre la Germania fa esattamente quello che da sempre ripetono gli antitedeschi di professione, dicendo dovrebbe alzare i consumi, perché così tira le importazioni dai paesi più deboli come noi. Invece no, fa solo l'export, miserabile, è rigore. Esatto. Guardi numeri, è il contrario. E il livello di consumi privati nel 2015 è stato, come contributo alla crescita del PIL tedesco, il maggiore dall'anno 2000, con un 1,9%. Cari antitedeschi. Naturalmente adesso, io so già cosa diranno, sta crescendo la spesa pubblica perché devono integrare tutto il milione rotti di immigrati siriani. Ma perché questi immigrati siriani, che sono la crema dell'intelligenza mondiale, viene integrata nella potente macchina da guerra dell'industria tedesca e li conquisteranno il mondo. Mentre a noi lasciano gli emigrati, oltre che gli immigrati a bassa qualifica. Quindi comunque la si giri, la colpa è della Germania. Ecco perché da noi si sta cominciando a dire piove, governo tedesco ladro. Certo. Ecco, questo è il punto. Poi una cosa che mi ricollego molto rapidamente alle banche, una cosa che ho letto stamane che mi ha colpito molto: le quattro good bank Allora, le quattro Good Bank hanno ricevuto manifestazioni di interesse, pare esclusivamente da entità estere, sì, sì, sì. Peraltro di... non banche ma private equity, esatto. Quindi da avvoltoi, locuste, cavallette, ornitorinchi, di tutti. Le definizioni ufficiali date dalle autorità italiane. Sdoganata anche dal presidente della Consob. Cioè, noi chiediamo da una parte, con questo tono di saccenza ultimativa, agli esteri darci soldi, dall'altra li copriamo di insulti. Esatto, queste locuste che vengono a... Però, dopodiché, per le quattro Good Bank c'erano state una pluralità di soggetti e banche italiane che avevano manifestato un primo interesse, però sono spariti tutti. Spariti. Anche queste sono manifestazioni di interesse non vincolanti. Raccogliendo i punti fragola quelle che hanno manifestato. Ecco, però chiamarle Good Bank è già un giudizio di valore. Chiamiamole Bridge Bank. Esatto. Sono banche ponte. Sul fatto che siano buone, esatto, adesso lo vedremo. Anche perché nel loro arco di piano, come dicono quelli che hanno fatto il militare alla McKinsey, nel loro arco di piano pare che le rettifiche per perdite su crediti continuino a lavorare sotto traccia. Cioè, queste banche hanno un sacco di incagli che stanno migrando a sofferenze, perché, come disse una volta qualcuno con una immagine molto efficace, i crediti deteriorati fermentano e gli incagli diventano sofferenze. Per cui le quattro Bridge Bank, come dice giustamente Carlo Alberto, pare che resteranno in rosso almeno fino al 2018. Questo è oggettivamente un problema, perché indica che il deterioramento dei crediti è ancora in atto. Sì, ma è la ragione per cui BCE aveva imposto un termine molto stringente per la liquidazione e la vendita, perché ovviamente lascia fermentare questi crediti deteriorati e senza un presidio manageriale forte, senza un'iniziativa chiara, non succede automaticamente il risanamento. Perché capito? Bisogna arrivare alla vendemmia, poi fermentano e arriva la Bridge Bank che fermenta. Oh, però ultima cosa, torniamo un po' al macro dal micro. Persiste il problema della deflazione, che è quello che praticamente ci mette oggettivamente in difficoltà. Perché adesso dobbiamo dirlo, al di là di dire la deflazione è positiva piuttosto che negativa, di questo abbiamo parlato, sì, da quando è iniziata sotto questa trasmissione. Però è chiaro che quando un PIL nominale a causa della deflazione cresce così poco, ebbene, noi abbiamo dei guai, perché siamo costretti a inseguire un avanzo primario molto pesante e non ne veniamo fuori. Per cui, diciamo le cose come stanno, questo contabilmente e oggettivamente è un grosso handicap, una grossa zavorra che il nostro paese si trova praticamente sulla gobba. Posso dire però una cosa, che la discussione sulla deflazione ha ancora in Italia un elevato grado di confusione. E ieri leggevo le associazioni dei consumatori che si lamentano contro l'assenza di inflazione. Allora, qui qualcuno mi deve spiegare qualcosa. Com'è che le associazioni dei consumatori, che dovrebbero difendere il potere d'acquisto, si lamentano del fatto che non c'è un'inflazione galoppante? Qualcuno me lo sa spiegare? Perché francamente non riesco a capirlo. Cioè, posto che è una leggera deflazione, non stiamo parlando di una deflazione colossale, semmai dovrebbero chiedere, come dire, a tutela dei salari reali, non certamente la ripresa dell'inflazione, che sappiamo è la tassa peggiore per chi ha reddito fisso e per chi deve consumare. Però, caro Alberto, non ti devo dire io, cioè, quando le cose vanno male, per anni, quando un paese come il nostro hanno quasi da 25 anni perde produttività comparata, occhio al dato anche della produttività, sì, che continua a essere negativo. Cioè, ah beh, certo. Cioè, questi 4 anni fatto pari a 100, Germania a 103,2, noi siamo a 98. Ma detto questo, quando le cose vanno male, vince nell'opinione pubblica e persino quindi nei consumatori. Cioè, tutti dimenticano, per così dire, molti dimenticano, non tutti, la propria constituency e gli strumenti che uno deve portare nella propria valigetta per adempiere la missione di rappresentanza, in quel caso quella dei consumatori, e iniziano a prevalere tam tam che si appellano alla paura, allo sgomento, all'irragionevolezza. Uno di questi è che, visto che la componente reale è chissà Dio quanto ci vuole per risalire la produttività e così via, ristrutturarsi, no? Meglio tenere i dazi contro la Cina, perché sennò sono ulteriori settori che devono ristrutturarsi, perdere occupazione in vista di nuovi investimenti e nuove imprese. Meglio a quel punto alcuni argomenti di tipo immediato. C'è chi crede alla svalutazione dell'uscita della lira, c'è chi chiede ma facciamo un'inflazione a tripla cifra, che questo aiuta, se non c'è la crescita reale almeno quella nominale. E questo è il punto. Dopodiché ci si dimentica che l'inflazione che si invoca è solo a favore dei grandi indebitati, a questo punto ovviamente i primis dello Stato, poi insomma di intermediari finanziari e così via, non certo del consumatore. Però è un meccanismo presente da sempre nella storia economica dell'umanità, questo qua è sempre così. La differenza è che c'è il compito di qualcun altro che a quel punto deve cercare col ditino alzato e dire no, un momento, ragioniamo. Però temo che sia... Guardate Helicopter Money. Con quanta facilità da 2 mesi a questa parte oramai tutti i giornali di qualunque orientamento, qualunque trasmissione televisiva citano questa cosa che nasce come un paradosso. Esatto, la citano come un paradosso, sì. Come se fosse lo sviluppo che è inevitabile oramai, certo, tra pochi mesi della politica monetaria. Copre mani significa non bastano più né le aste liquidità a bassa garanzia del collaterale, no, non bastano i tassi di interesse negativi, no, ci dobbiamo inventare una politica monetaria ulteriormente. Poi cosa facciamo? Diamo direttamente i soldi, in teoria, con un elicottero che li distribuisce direttamente tipo gli 80 euro, giusto per farti capire. Sì, quello noi abbiamo già fatto, però non il governo ma la banca centrale. Esatto. Questa cosa è diventata una cosa di cui tutti parlano, e ci vuole l'elicottero, ma io dico, ma siamo in un paese di matti. Però questa cosa si spiega, e si spiega perché sono i regolatori ormai a spingerla, l'informazione a farla come propria bandiera e parola d'ordine. È una trasformazione, guardate, che per emergere dalla quale ci vorrà molto molto molto tempo, perché significa che noi la battaglia per fare contratti di produttività la perdiamo. Perché vediamo, come adesso, evidente, abbiamo un ministro dello sviluppo economico che dovrebbe presiedere a indirizzare, e speriamo con saggezza, una buona notizia, dobbiamo dire, buona, mezza buona notizia, a me spiace per Bruxelles, però il fatto che sia tornato Carlo Calenda, secondo me è una buona notizia, possiamo dirlo, qualcuno è d'accordo, in disaccordo? Almeno no, io ho twittato, conosce i dossier, aveva fatto bene, è competente, niente Giulio Magico. Detto tutto questo, anzi, l'idea era che Renzi ha un po' finito il giro stretto degli amici, per così dire. Il che potrebbe essere un'eccellente notizia per il paese. Anche sul trattato transatlantico per il commercio, che anche lì vedo in televisione, sui giornali, dissezionato da chi secondo me non ha la minima idea di che cosa sta parlando in nome di parole d'ordine, lui se ne è occupato seriamente e speriamo che in qualche modo dia un buon contributo. Okay, però... dico un'altra cosa renziana, posso? Chiedo, certo. No, ma oggi siamo tutti molto renziani. Ieri il Presidente Cusio ha detto 2 cose interessanti, una è ho giurato sulla Costituzione e non sulla Bibbia. Hai ragione, sul Vangelo. Due, ha detto il governo è schierato per l'accordo di libero scambio internazionale transatlantico. Sono 2 affermazioni, francamente, che a me rassicurano in un quadro grigio e oscuro. Mentre a me è toccato, naturalmente, mettermi di nuovo sotto il fuoco d'artiglieria dell'editore di questa radio ieri, perché in una trasmissione dedicata alla clausola libero mercato sulla Cina, che abbiamo fatto con Uto Gumpel, abbiamo spiegato come e perché la Germania della Merkel con ogni probabilità dirà sì alla concessione della clausola, a differenza dell'Italia e di Confindustria che si batte per il no. Ma io aggiungo che credere che siano i dazi la via per difendere le produzioni italiane, non ci ho mai creduto nella storia, non ci credo neanche questa volta qua. E quindi, ripeto, credo che l'Italia, da questo punto di vista, cari ascoltatori, se la Germania dice sì, mentre l'Italia dice no, ai 52 dazi sui 73 che l'Unione Europea riserva alla Cina, vedrete che ci sarà una nuova ondata sui giornali di tipo i tedeschi vogliono la nostra morte e così via. Mentre invece ieri vi abbiamo spiegato come qualmente anche importantissime filiere produttive tedesche, quelle dell'acciaio, quelle della meccanica, quelle del cemento e un po' quelle della chimica, sono anch'esse in prima fila insieme a Confindustria, certo, però il governo la pensa diversamente, questo è il piccolo problemino. Tutto sommato io mi sento di difendere più i governi che dicono va bene gli interessi, però c'è una linea più generale, o no? Tu che dici? Assolutamente, anche perché ricordo che noi abbiamo bisogno di riaprire una via della seta di esportazione di una gamma di prodotti molto più vasta di quella tradizionale, perché ci spinge a crescere con le specializzazioni commerciali, cosa che invece i dazi impediscono in qualche maniera. Quindi per me l'atto di coraggio che sta facendo il governo tedesco dovrebbe essere la traccia anche per il governo italiano. Questo lo sai. Però guardate, mia riflessione è che l'Italia per l'ennesima volta si trova nel posto sbagliato, dalla parte sbagliata al momento sbagliato, perché il grado di protezione tariffaria di cui gode l'economia italiana complessivamente è inquietante. Quindi se ci viene progressivamente meno, noi siamo in guai serissimi. Il nostro livello di produzioni, che persiste su una fascia bassa di valore aggiunto, questo è il punto. Ma questo è il problema, sapete cos'è? Che non si risolve in una generazione o due, nemmeno iniziando e prendendo la strada giusta, è quello che mi angoscia. Però adesso, il dato... Secondo me il report fatto dalla Commissione Europea è discutibile dal punto di vista statistico quantitativo, ma al netto di questa roba che riguarda noi maniaci dei numeri, il 40% del totale delle imprese europee che sono tutelate dai 52 dazi anti-Cina è italiano. Certo. Il 40%. Certo. Questo dico. Ed è una cosa che nella testa mi ha fatto tornare al 1953. 1953 è la prima rottura rispetto alle politiche daziarie post Seconda Guerra Mondiale. Anche in quel caso la Confindustria, guidato da un grande gigante storico dell'epoca, contrarissima ad abbattere i dazi, Ugo Amalfa, ministro del commercio all'estero, dice: ragazzi, se noi mai facciamo il passo di levarvi l'ombrello, voi continuerete a pensare che anche quando c'è il sole è l'ombrello quello che bisogna tenere aperto. È vero, hai ragione, però se posso dire è miope, perché la classe media cinese espanderà la propria spesa, perché non può più crescere con gli investimenti. La Cina dovrà crescere con la domanda interna, ha bisogno enorme di beni anche di tipo italiano di alta qualità. Dando più garanzie di tracciabilità, di qualità, secondo me c'è una strada verso la Cina straordinaria. Francamente lo trovo molto miope, trovo molto, tutto questo molto miope. La Cina, la domanda interna della Cina, la classe borghese della Cina, stiamo parlando di veramente centinaia di milioni di persone, è la nostra strada per la crescita. Ai quali dobbiamo dare cose esattamente, come diciamo, di maggior valore aggiunto. Qualità della vita, posso non dire. Non è che possiamo pensare di fare il cemento più competitivo. No, ma infatti noi abbiamo tutte produzioni a basso valore aggiunto che lentamente vanno a morire. Guardate che la colpa non è della moneta unica, toglietevelo dalla testa, perché queste dinamiche sarebbero avvenute comunque. Quindi se qualcuno pensa che il problema sia la moneta unica su produzioni a basso valore aggiunto inserite in una divisione internazionale del lavoro dove noi restiamo prevalentemente labor intensive, si faccia vedere da uno bravo. Il problema non è quello. Se pensate che le svalutazioni, un po' come le care vecchie gloriose case chiuse, risolvano i problemi, anche lì fatemi vedere da uno bravo. Hai perso, perché la nostalgia delle case chiuse tra i maschi italiani ma anche in quelli che all'epoca non c'erano hanno la nostalgia delle case chiuse. Allora, è culturale. Torniamo tra un minuto a parlare del bilancio di Roma. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta ai compagni dei conti della Belva, felici naturalmente di aver suscitato la vostra consueta raffica di opinioni dissenzienti rispetto alle nostre. Comunque, allora, andiamo a uno dei nodi che tra qualche settimana, quando andrete a votare, dovrete affrontare. In una delle grandi città italiane, cominciamo da quelle, ci occuperemo di Roma, Milano e Torino in serie, la situazione economico-finanziaria del bilancio è, devo dire, parecchio diversa, cioè viviamo in più Italie. Ecco, quella di Roma, a guardarla bene, anche quella di Napoli è abbastanza impressionante, posso garantire. Vabbè, però Napoli c'è un sindaco, diciamo, friccicarello, no? Vi dovete cagare sotto! Va bene. Okay. Però al di là di questo, quella di Roma, a vedere le carte, insomma, l'impressione, ripeto, che ho io, non esiste, cioè non so come dire, non riesco a concepire per un nuovo sindaco la possibilità di venirne a capo. Con strumenti ordinari non riesco a concepirlo. Gli strumenti straordinari li abbiamo già concessi a Roma come a nessun'altra città italiana. Gli abbiamo dato una gestione commissariale separata del debito, erano 18 miliardi ai tempi dell'inizio della giunta Alemanno, sono ancora 13 rotti, più vicini a 14 che a 13, e il commissario che la gestisce, Silvia Scozzese, dopo una traumatica esperienza di assessore al bilancio, poi buttata fuori da Marino, che è tornata per il MEF a gestire, a capo della gestione commissariale, ha conti alla mano, avvisato che dal 2017, cioè tra pochi mesi, c'è un problema di liquidità annuale per gestirlo, cioè per consentire di andare avanti con i rati di ammortamento e che di diminuirlo anno per anno, quindi anche la gestione commissariale è minata. E vi dico solo che basta fare un rapido confronto tra Roma e Milano sul totale delle entrate per capire che sul totale delle entrate praticamente Roma è solo dipendente da quel po' di tasse che riesce a incassare e dai trasferimenti, perché per il resto, se uno vede in termini di questi ultimi anni, è diventata una città totalmente incapace di incassare ordinariamente, cioè di incassare le tasse, le imposte, i canoni per i servizi, i canoni sull'immobiliare. C'ha 7,1 miliardi su un totale di 5 miliardi di entrate di crediti accumulati. Esatto. che derivano esattamente da questo. Possiamo dire che è un paradiso fiscale reale, nel senso che non si pagano le tasse, ma in senso pratico, no? Cioè, non si paga, le tasse non si pagano. No, perché guardate che è veramente impressionante avere da una parte un debito che non si regge più dopo che gli hai regalato la gestione regalata. Non è regalata perché da anni a questa parte c'è una rata annuale di 500 milioni che sta 200 milioni a Roma ogni anno e 300 milioni per tutti noi contribuenti in tutta Italia. A questo si somma una macchina pubblica che è stata travolta da decine e decine di osservazioni documentatissime dei rapporti ANAC, perché ci sono, se sommiamo il totale delle stazioni che hanno diritto a emanare gare e quindi il procurement e a bandire lavori, se sommiamo quella dei diversi punti presenti nel Campidoglio, dove non sono gli assessorati, sono i dipartimenti a farlo, le municipalità e le maggiori, quelle di prima fila, partecipate, controllate pubbliche, scusatemi, a Roma, abbiamo la bellezza di più di 72 stazioni. Di queste 72 stazioni non è che ognuna ha un responsabile, no. Ogni gara, ogni bando ha un cosiddetto responsabile di procedimento. Questo significa che i sistemi per gestire queste gare non sono centralizzati dal punto di vista digitale, sono compartimentati e separati. Apposta, caro Oscar. E questo significa che ognuno ha una propria capacità, io non voglio dire che venga sempre, capacità di frazionare le gare sotto gli importi naturalmente previsti per legge, procrastinare le gare fino al punto tale da confermare gli affidamenti. Ci sono affidamenti confermati per oltre 20 anni nelle concessioni pubbliche romane. Le cooperative come quelle che avete letto in Mafia Capitale andavano avanti così, c'erano addirittura protrazioni ventennali, il tutto in una opacità assoluta, il che appunto da dire che arriva un sindaco, dice come faccio, non è che emano un'ordinanza e cambio tutto da un giorno all'altro. C'è una macchina pubblica nella quale il salario di produttività, eccezione in tutta Italia, nelle altre grandi città, e poi finisco, la componente di salario di produttività che veniva spalmato in tutte le buste paga era superiore anche al 50% a Roma, nelle altre città è sceso, tant'è che adesso bisogna restituire più di 200 milioni, il MEF ne aveva chiesto quasi 400, delle passati salari di produttività dati spalmati a tutti a Roma. E quindi c'è un enorme problema aperto anche con i dipendenti pubblici, altro che dare i 1.500 euro di cui parlava il sindaco. Allora, la condizione è questa. In più, le due municipalizzate più scassate d'Italia, segnalate in quanto tale dal rapporto RS di Mediobanca ogni anno sulle municipalizzate, cioè ATA che ama, ad ATA che abbiamo dato negli ultimi 4 anni, fino al 2014, quindi 2010-2014, 4.1 miliardi di sussidi pubblici, ne ha persi un altro 1.200 miliardi, quindi un falò di riserve pubbliche, e da questo punto di vista anche lì la gestione ordinaria secondo me non è in grado di venirne a capo, l'AMA non è in grado di chiudere il ciclo dei trattamenti dei rifiuti, c'è un solo impianto per i rifiuti organici, avrebbe bisogno di massicci investimenti, ma il suo conto economico, gli squilibri finanziari non glielo consentiranno. Allora, come si viene a capo di tutto questo? Nella campagna elettorale impegni concreti su queste cose se ne sentono pochi, niente a dire la verità, perché le polemiche politiche prevalgono e quindi questi poi sono dettagli, i cittadini vorrete mica annoiarli. Allora noi abbiamo chiamato oggi chi se ne è occupato? Se ne è occupato perché è stato presidente della commissione speciale per la riforma e la razionalizzazione della spesa dell'amministrazione capitolina, quindi una commissione bipartisan che gli è stata attribuita anche come se, in quanto opposizione all'interno del Consiglio Comunale, cioè Daniele Frongia, che ha poi raccolto un bel po' di dati su tutta questa ricognizione sull'abisso, come la chiamo io, in un libro che ho trovato per editore Chiare Lettere, che si intitola E io pago, che condivido con te, cioè Daniele Frongia, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, la sua opinione è che è possibile venirne a capo con strumenti ordinari? La mia opinione è che la situazione attuale deriva dallo stratificarsi decennale di una mala gestione della cosa pubblica, quindi ovviamente le rispondo no, non è possibile, soprattutto non lo è nel breve periodo. Sicuramente con strumenti ordinari e strumenti straordinari, ma soprattutto con una revisione complessiva, radicale della macchina amministrativa, sia quella pubblica che delle partecipate, nel medio e nel lungo periodo invece è possibile rivedere la luce, quindi sono leggermente meno pessimista. No, ma nel medio lungo penso anch'io. No, no. Ma il problema è che il medio-lungo, secondo lei, significa avere altri sostegni dal governo centrale, perché no, altrimenti non vedo come si possa fare. Cioè, non riesco a concepire un aumento nominale delle aliquote ulteriore già ai massimi Roma che crea incassi veri, se poi uno non è capace neanche di incassare le tasse, o sbaglio? No, non sbaglia, però è anche vero, come sosteniamo nel libro con la coautrice Laura Maragnani, giusto, che sulla base del lavoro svolto in questa commissione, ma anche del gruppo Capitolino, abbiamo trovato degli sprechi per oltre 1 miliardo di euro l'anno, cioè oltre a quello che leggiamo nel bilancio, e che, come diceva giustamente lei, è praticamente un falso, cioè vale a dire, più, non è un'opinione nostra, ma è stata messa nero su bianco dall'Ores, cioè l'organo di revisione economica finanziaria, che dice che è impossibile avere una misura vera, ultima, reale e definitiva dei conti che ci sono da pagare. Esatto. Quindi il bilancio di Roma possiamo dire che è un falso da prima all'ultima riga, e che sostanzialmente allo stato attuale Roma è fallita. Però ecco, da questo punto di vista ci sono margini di buon governo per, nel lungo periodo, ripristinare una situazione diciamo di normalità, che questo è il grande obiettivo che si può porre una città come Roma: non diventare una piccola Svizzera, ma diventare una città un po' normale. Del resto, io ho questa impressione, torniamo tra un minuto, ma io ho questa impressione: in pochi mesi la gestione commissariale di Tronca ha rivelato che dalla sveglia sui canoni ad Affettopoli, alla questione del salario finto di merito da affrontare, più di uniti riaprendo tavolo e ritrattandolo con i dipendenti, alla questione dei vigili urbani, alla questione, il totale dei tagli che lui ha individuato in pochi mesi. Naturalmente lui non deve andare, per così dire, in un consiglio capitolino a trattare con i partiti, né di maggioranza né di opposizione, però lui ne ha indicati per l'8% del totale delle spese correnti a Roma, che è un po' come se a livello nazionale sugli 800 rotti miliardi Renzi ci proponesse tagli per 64 una miliardi. Spending review. Capito? Una spending review. Quella vera, però. Esatto. Allora, volendo, si può fare. Io sono d'accordo con Fronda. Certo, adesso vediamo dopo un minuto, significa mettere le mani in questioni su cui è inutile illudersi. La città esplode per le proteste. Però poi devo chiedere anche due parole. Uno, sulla nostra dinastia Windsor, che è il Vaticano. E secondo, sulle Olimpiadi 2024, su cui so che Daniele si è occupato nel libro, quindi magari tra ci un minuto, ecco. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci tornati, compagni di Conti a Belva, ed è con noi Daniele Frongia, autore del libro Io Pago, editore Chiare Lettere, già presidente nell'assemblea Capitolio della Commissione Speciale per la Riforma e la Razionalizzazione della Spesa dell'amministrazione capitolina, e la guida della commissione gli è stata data in quanto consigliere all'epoca dei 5 Stelle. Dicevamo, ci siamo lasciati con alcune domande, con osservazioni da Carlo Alberto Cannavale Maffè. Il Vaticano è uno che sta indietro sul pagamento delle tasse. Il Vaticano, la prospettiva delle Olimpiadi 2024. Sta indietro perché ci aspetta avanti, dai, sì. Su, poi tutto, no, perché, si, tutto perché si i tempi della Santa Romana Chiesa sono millenari, lo sai. Le Olimpiadi 2024, in cui tutti sembrano buttarsi, non c'è uno straggio di budget credibile per le sovraspese della città, ma soprattutto nel breve ipotizziamo che qualcuno davvero con le idee chiare voglia nel medio lungo ridare efficienza all'intera macchina, ridisegnare l'intera macchina, prendere decisioni pesanti sulle partecipate e controllate. Ma nel breve c'è un'alternativa rispetto che battere cassa rispetto al governo centrale, secondo Daniele Frongia? Abbiamo voluto anche dare un po' di speranza al lettore alla fine del libro, una sorta di vademecum del buon amministratore, insomma, con delle azioni concrete che si possono realizzare. Una è esattamente quella che avete detto voi all'inizio, cioè intervenire sugli acquisti. La famosa centrale unica di acquisti, che è unica per modo di dire a Roma, così come in Italia tra l'altro, sì. Come ha rilevato anche Cottarelli nella sua commissione Spending Review. Quindi ci sono moltissime misure degli acquisti all'intervento forte nelle aziende. Noi abbiamo aziende a Roma che si occupano di tutto, cioè dalla guardiania dei campi Rom allo spazzamento delle strade del Senegal, al finanziamento delle marce per la vita, cioè noi abbiamo di tutto, qualsiasi azione ci viene in mente, sicuramente abbiamo un'azienda che se ne occupa. La vendita dei fiori, naturalmente, che è il core business di Roma, abbiamo, e che naturalmente l'azienda che cito non ha mai né comprato né venduto un fiore. Quindi sicuramente intervento sulle aziende, sul patrimonio immobiliare e appunto, come dicevate prima, anche... Però se posso, Daniele, scusa, ma invece che occuparci di acquisti, perché non ci occupiamo di vendite? Cioè, perché non cominciamo a pensare di dismetterle un po' queste cose e di restringere il perimetro della gestione pubblica romana? Ricordo che ci sono anche aziende agricole del Campidoglio, gestite o di proprietà del Campidoglio, come Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere, carni, salumi, formaggi, naturalmente perdono soldi. Non tutti lo sanno. È un microcosmo, è un microcosmo. E quindi chiediamo al candidato, perché è candidato al Campidoglio, insomma, comunque con un ruolo importante, a Daniele, con un uomo di numeri, no? Finalmente chiediamo, ma statistico perché? Di formazione finalmente no? Chiediamo, ma perché un po' di dibattito su questo, almeno voi, come dire, che avete questa verginità amministrativa alle spalle, non lo mettete sul tavolo? No, questo è vero, nel senso che noi già da tempo abbiamo chiesto di ridurre il perimetro di Roma Capitale, quindi pensiamo ad alcune partecipazioni, magari abbiamo 6, 7, 10%, dal quale forse sarebbe, caso per caso da valutare, utile se non necessario uscire. Da questo punto di vista è vero quello che dite. Io nel 2013, appena sono entrato, ricevetti una telefonata in cui mi dicevano: ci sono delle mucche che stanno male, per favore intervenite. Io pensavo fosse uno scherzo per mia prima ignoranza, invece noi gestiamo anche le mucche, erano 500, allora adesso non so come stiano, però ecco, da questo punto di vista ci sono le oche del Campidoglio, giustamente, ci sono anche le mucche, dovete occuparvi di tutto, ragazzi. E invece, tornando al Vaticano, io direi potremmo partire dall'affermazione molto forte di Papa Bergoglio, che un ex convento diventato chiesa, un ex convento diventato hotel a 5 stelle, naturalmente deve pagare le tasse, e noi siamo d'accordo. A Roma però questa non è un'eccezione, questa è la regola. E quindi alla fine, andando a vedere il patrimonio immobiliare, censiti ne abbiamo trovate 12.000 unità immobiliari che sono riconducibili al Vaticano, che sono sul nostro territorio. Alcuni sono esercizi commerciali. Alcuni, parecchi direi. E per le Olimpiadi che dici invece? Guardi, forse non è inusuale fare pubblicità a un altro libro quando si presenta al proprio, ma mi hanno segnalato, mi hanno portato a mano, con fare così molto, con molta circospezione, un libro che non si trova in librerie, quindi non faccio nemmeno pubblicità, che è un libro di Pietro Mannea sui costi delle Olimpiadi. Ed è un libro illuminante, tra l'altro c'è fortissima convergenza con il nostro libro, con le nostre tesi. E cioè, in tutte le città, come è andata a finire? Esatto, bravo. A parte Atlanta, a parte un caso statunitense che quasi quasi ci ha guadagnato, ma diciamo con quasi quasi, mettiamo, negli altri casi è sempre stato un disastro. Perdite e moltiplicazioni dei costi rispetto alle previsioni iniziali. Lo sappiamo, perché l'Istituto Bruno Leoni sono anni che tentiamo di documentare i numeri sul tavolo, e lo sappiamo, e non capiamo come tutte le volte ci ricadiamo. Perché questa campagna per rifare le Olimpiadi a Roma, quando sappiamo che è una perdita strutturale? Allora, io posso solo dire ai nostri ascoltatori, ripeto, leggetevi, soprattutto chi deve votare a Roma, il libro E io pago, di Daniele Frongia, scritto poi insieme a una giornalista di Panorama anche, Chiare Lettere editore, date un'occhiata ai numeri e fate domande precise. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati, cari ascoltatori, qui compagni dei Conti della Belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto. E siamo qui dopo avervi illustrato gli abissi dei conti di Roma e avervi dettagliato su questi meravigliosi ritmi di crescita italiani rispetto a ritmi un po' più solidi di quelli europei. Sentiamo qualcuno di voi intanto sugli argomenti che abbiamo toccato o su altri che ci hanno chiamato. Ma ragazzi, prima delle telefonate, mi diate qualche sms. No, c'è un sms molto interessante che però non sono riuscito a decodificare, per cui chiedo aiuto a tutti quanti. Come? Allora, leggo: le case chiuse, ma che cazzo dite? Quando si parla di unioni civili si citano i famosi paesi nordici. Per la gestione di un problema come la prostituzione si alzano i dazi culturali, ma fatemi il piacere, Enzo da Latina. Vabbè, non c'è una cazzo di virgola in questo SMS. Enzo, controlli vabbè, bene la tastiera del suo smartphone, perché ci sono anche le virgole. Vabbè. I dazi culturali, poi Mario, esattamente. I dazi culturali. Cioè, uno entra in un bordello e deve pagare il dazio culturale. I dazi culturali. No, io lo sapevo, voi, quando avete citato la nostalgia delle case chiuse, toccavate un punto su cui i maschi italiani, tac, partono in quarta, e così. Allora, sentiamo Andrea da Roma mentre mi leggete altri poi SMS dopo. Andrea da Roma, prego. Buongiorno, Gianino. Buongiorno. Siamo dalla provincia di Roma, da Tivoli, sì, precisamente. Noi abbiamo fatto un esperimento particolare, una giunta comunale, non pensavamo di vincere, ma è del tutto inusuale, ma è accaduto. Siamo in realtà una lista civica, quindi con problemi enormi, immensi. Quello che volevo dire è che una cosa che Roma potrebbe causare anche a tutti i comuni della ex provincia di Roma è il fatto che non abbiamo più rappresentanti nel progetto di dismissione della provincia di Roma. I comuni della provincia non hanno rappresentanti, quindi in realtà Roma potrebbe fagocitare tutte le risorse anche destinate alla provincia. Parliamo di più di 100 comuni. Questo cosa, devo dire la verità, è un problema analogo, a Roma più grave che altrove, però è analogo per i comuni che ricadono nelle nuove confini amministrativi delle grandi città metropolitane. Cioè, anche a Milano c'è un problema di questo genere qua, perché la nuova area, per così dire, non è ancora funzionante e nel frattempo si viene penalizzati nelle risorse. E quindi questo è... vedremo, perché la traslazione alla nuova davvero operante regolamentazione dell'area metropolitana comporta problemi di questo tipo. A Roma è più grave, perché la questione di Roma capitale nei rapporti con il governo è molto più accentrata e diretta di quanto non capiti per le grandi aree metropolitane nel resto dell'Italia. Quindi effettivamente, secondo me, il problema posto da Andrea è un problema più serio che altrove, anche se anche qua è molto sentito nei comuni limitrofi a Milano. Sentiamo Piero da Roma. Piero, prego. Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziarvi per essere una voce fuori dal coro e vi faccio i complimenti per la trasmissione. Oh, grazie. Inerente all'aspetto di Roma, la mia personale opinione, per quel che può contare, è che il problema di Roma sarà insolvibile, in quanto troppe persone a tutti i livelli, dai semplici cittadini che insorgono e che sono complici e conniventi di un sistema che hanno voluto e che vogliono. Dopodiché ci sono i politici, gli amministratori, i preti, tutti quanti, gli imprenditori, che in questo sistema ci campano benissimo, fin tanto che ci sarà qualcuno che pagherà quei conti, che sarà lo Stato nazionale, che saranno le tasse, che sarà di chi le paga, visto che loro non le pagano. Quindi finché questo sistema starà in piedi, nessuno di quelli che occupano le case, di quelli che lavorano facendo finta di non lavorare, che occupano posti che non meritano di occupare, nessuno avrà l'interesse che questo sistema cambi. E siccome sono troppi, questo sistema non cambierà mai, purtroppo. Da questo punto di vista, e mi dispiace, lo dico con amarezza, purtroppo aveva ragione Bossi quando definiva Roma ladrona, perché in quel sistema sono tutti conniventi e collusi e conniventi. Questo io non so, grazie, se riguardi solo Roma, grazie a Piero. Io non so se riguardi solo Roma, ho l'impressione che riguardi anche altre lande d'Italia. Magari anche, come dire, a latere l'autore di quell'affermazione. Chi può dirlo? Comunque, detto tutto questo, in effetti il meccanismo di collusione, per come è stata organizzata, come si è evoluta nel tempo la macchina romana, che non è uguale in tutta Italia, vi posso garantire, cioè io non conosco un'altra amministrazione di grande città italiana, nemmeno quelle devastate del sud, sono così scientificamente compartimentate nella gestione delle procedure in maniera tale da rendere deliberatamente impossibile ogni processo centralizzato e digitale di controllo. Cioè c'è dietro un'architettura che è frutto di una scelta, di un sistema evolutivo che non è fatto neanche dai capi partito, perché qui stiamo parlando di pezzi di amministrazione pubblica, cioè dirigenti improprio, percordate improprio, con pezzi di interesse, e attenzione, non riguarda solo il mondo pubblico, perché per ognuno di questo meccanismo di gare fuori mercato o confermate senza gara c'è un grande pezzo di mondo privato che campa potendo piazzare offerta di beni e servizi solo in questa maniera, perché non potrebbe mai neanche concepire di fare una gara vera, Carlo Alberto. Cioè, il problema è la commissione privata. C'è un mucchio, ci sono, diciamolo, centinaia di migliaia di imprese italiane in meccanismi come questi, centinaia di migliaia, secondo me. Ecco, a me questa cosa atterrisce, perché il problema non è pubblico cattivo, privato buono, capite? Il problema è marcio di qua, marcio di là. Made in Italy. E scegliere invece qui non lo è coinvolto con questo. Io veramente credo che mettere in piedi un sistema digitale controllabile con l'accesso ai dati dal basso, che diventi la piattaforma anche per l'accesso ai servizi dal basso, dovrebbe essere una grande rivoluzione dell'efficienza, dell'accesso ai dati e dei diritti. Sono tre aspetti fondamentali. Ci vuole una scelta di digitalizzazione a tutti i livelli, ma dietro ci vuole una volontà politica terrificante, perché ti trovi la città che insorge su questo. Perché non è che insorgono solo i politici, non è così. E ripeto, non è solo a Roma, questa ma, è la mia impressione. Forse è il caso di non abbandonare Roma ai romani, di riappropriarcene come capitale e in un certo senso di farla diventare veramente problema nazionale. Non solo perché ne paghiamo i debiti, ma perché ci facciamo carico di quello che è un pezzo fondamentale, simbolico della nostra nazione. Io non penso che Roma possa essere affidata soltanto tanto a chi la odia, e noi che la amiamo, sono anche se siamo milanesi. Però mettiti nei panni di un'altra grande città che si vede i trasferimenti tagliati brutalmente. Quando dico tagliati brutalmente, significa che l'ordine di grandezza in 5 anni della diminuzione dei trasferimenti, per esempio da Roma a Milano, siamo passati da 800, quasi 800 milioni, nel 2015 sono diventati poco più di 300 milioni, quindi stiamo parlando di un taglio di 500 milioni. Vaglielo a dire agli altri grandi sindaci delle altre grandi città: Roma ce la riassumiamo sulle spalle ancor più dopo avergli regalato la gestione del debito commissariale. Gli altri dicono: oh, ragazzi, ma premiamo solo i buchi neri? Questo è un altro argomento. Probabilmente anche quello è colpa di Schäuble, però bisognerebbe analizzare più in profondità. Ma mi pare Schäuble ieri questa intervista ad Andrzej Batti, non so se l'avete letta, era meravigliosa. Meravigliosa. L'intervista che gli chiedono, dice: ma lei è amica della Merkel? Risposta: amica? No. Perché mai dovrei essere amica? Un rapporto con la Merkel, amici personali, no? Brutale inizio! Sì, molto tanto tedesco. Tanto per essere chiaro. Ma la Grecia, ma su, state, il giornalista di Andrzej Batti ha una linea per cui bisogna fare la ristrutturazione del debito greco. Allora, pongono il problema a Schäuble. Schäuble dice: senta, le cito un economista, non so se lo conosce, Varoufakis, ecco, Varoufakis, prima di avere incontro gli ufficiali con me, se vuole le do la citazione, ecco, la citazione è questa: guardi, aperte virgolette, se chiunque ci condonerà il debito deve sapere che entro 3 anni saremo nelle stesse condizioni e faremo la stessa richiesta. Dice: quando io l'ho incontrato la prima volta ho detto: lei è lo stesso che ha detto queste cose qua? Scusate, un'intervista fenomenale, cioè devo dire veramente incredibile. Stefano D'Arieti, prego Stefano. Sì, buongiorno dottor Giannino, io sono un suo grande stimatore da anni. Paziente, grazie, non dico. Mi dispiace per lei. Impaziente, se posso dire. Dunque, niente, io nel finale dell'altra parte ho sentito che si parlava delle Olimpiadi di Roma, veramente un po', diciamo, all'interno di un contesto molto più ampio. Beh, io ho soltanto un paio di considerazioni, una di carattere sociale che riguarda le future generazioni. Mi dispiace sentire continuamente parlare delle Olimpiadi come un qualcosa che crea o che distrugga ricchezza per la nazione, e che comunque invece, per quanto mi riguarda, penso che sia una grandissima opportunità per le nostre generazioni future, anche perché si parla di un progetto di qui ai prossimi 8 anni. Sì. La seconda, di carattere economico, invece, visto che lei è come me un adulatore dei numeri, la prego di guardare, eventualmente se ha la possibilità, di guardare anche gli studi che sono stati fatti sia da istituti privati che da istituti Stefano, di ricerca pubblici. Questo te lo dico, ma il problema è che li ho guardati, cioè io ero molto critico dello studio che era quello sulle conseguenze e l'impatto sul PIL fatto per la precedente candidatura a cui Monti disse no. Altrettanto analitico per il momento non è stato fatto, è stato preso quello e riaggiornato. Ecco, quello studio secondo me non è affatto ben fatto, perché ci sono effetti moltiplicatori che anche i numeri ex post di Expo dovrebbero indurre dal punto di vista statistico a rivedere i criteri. Dopodiché ti faccio presente che fino a questo momento, Stefano, il dossier di candidatura è stato presentato con una valutazione di costi esclusivamente e ristrettivamente per gli impianti sportivi, che non comprende alcuna valutazione dei sovraccosti per le opere urbane, di trasporto, di infrastrutturazione, eccetera, eccetera. Quindi io sono d'accordo con te, Stefano, io voglio vedere i numeri, non voglio sparare a prescindere. Però i numeri fino a questo momento non ci sono. Questo è per me la cosa di fronte alla quale dico: una città così indebitata, primo proponeteceli bene, ma poi fateceli vedere, perché attualmente i candidati sindaci, che sono tutti contattati dal comitato organizzatore, da Malagò e Montezemolo, si sentono stretti a dire no, ma io non dico che dicano no, dicano fateci vedere i numeri, io se non vedo i numeri non posso prendere posizione. Questa è la mia opinione, che è dovuta in una città dagli squilibri economico-finanziari, ma soprattutto sociali che ha Roma, non dimentichiamocelo. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta ai compagni di Conti della Belva, cari ascoltatori, in questo sabato inizio di settimana. Allora, due domande sulla grande riforma passata con tra polemiche, con il voto di fiducia del governo, con la CEICA insorta, con alcuni appartenenti alla gerarchia, tipo il vescovo di Monreale, che hanno addirittura non lesinato giudizi molto pesanti, parlando di fascismo strisciante, dimenticando che era segretario di Stato alla Santa Sede a indicare i Mussolini l'uomo della provvidenza, ma anche nella Chiesa ormai non muore da pesce rosso. Detto questo, noi abbiamo solo due grandi questioni. Primo, questo io l'ho scritto da subito, a me non convince molto, magari sono in minoranza, nel fare una legge che si dice ci deve portare in linea con i paesi europei, era vero che eravamo fuori linea, per diritti al scelte di unioni tra appartenenti allo stesso sesso, ci siamo inventati però anche una formalizzazione delle convivenze eterosessuali, a cui abbiamo attribuito una batteria di diritti, secondo me, eccessivamente, ingiustificatamente, asimmetricamente inferiori rispetto alle unioni civili. Cioè, volevamo accorpare e omologare i diritti e siamo riusciti a creare una scala a più gradini di nuovo aggiuntiva. Io non capisco perché. E vi garantisco che mentre il più dei diritti attribuiti alle unioni civili sono praticamente quelli classici del matrimonio, sono quelli classici, compreso dalla convivenza all'indirizzo comune nell'unione civile, i rapporti patrimoniali, i rapporti successori, la pensione di reversibilità e così via, quella della convivenza, tranne alcuni diritti, nel caso in cui il partner eterosessuale con cui la si dichiara sta male, muore, eccetera, eccetera, non c'è diritto alla successione, ovviamente non ci sono i vantaggi previdenziali. Io questa cosa non l'ho capita. E poi la seconda cosa è, ma non era il caso, visto che noi stiamo attenuando di passo in passo la vecchia legislazione a favore dell'unica famiglia, quella eterosessuale e procreativa, che per decenni, no, è stato l'unico punto di riferimento della legislazione italiana, e la stiamo attenuando, l'abbiamo attenuata prima col divorzio, poi col divorzio breve, ora con questa giusta introduzione di tutele a nuove forme di libera scelta sociale e di formazione sociale. Perché estendere i vecchi diritti e non ridiscuterli? Cioè, perché non ridiscutere i criteri della reversibilità invece che estenderli anche a quelli agli appartenenti delle unioni civili? Tenuto conto che nel nostro paese ci sono quasi 4 milioni oramai di titolari di trattamenti di pensioni superstiti, e che quindi la spesa va verso i 4 miliardi, visto che il trattamento medio secondo il libro bianco INPS relativo ai dati del 2014 è di 800 e rotti quasi 900 euro al mese. Ecco, la risposta dell'INPS è stata: sì, ma insomma, noi ne possiamo prevedere solo poche decine di migliaia di queste unioni civili, quindi è un costo che anche in termini decennali sarà di poco più di 100 milioni di euro. Ma il problema è che secondo me è superato l'istituto in sé, e andava ridiscusso l'istituto in sé prendendo spunto da questa vicenda. Può essere che io mi sbagli, può essere che no. Intanto, voi, caro Alberto e Mario, come la pensate su queste nuova differenza di diritti tra unioni civili e le convivenze eterosessuali? Io userei un approccio progressivo. Avevo scritto piuttosto che niente, meglio piuttosto. Anche perché sì, l'impressione è che probabilmente da qui in avanti ci sarà una strada lunga, accidentata e quant'altro, che però porterà probabilmente per via incrementale a modificare progressivamente questa legislazione e ad assimilarla a qualcosa di più, come dire, civile, di qualcosa di più simile alla media che c'è in Europa. poi queste anche se dall'altra parte io posso aspettare, sì, ma siccome poi alla fine, come si vede, si decide a fiducia, visti i tempi del ritardo italiano, bisogna tentare di approfittarne quando si fa, di fare le cose però bene. Sai, però sai, qualcosa è qualcosa che viene introdotto, no? Nell'abitudine, nella società, poi a livello culturale mette radici, alcuni pregiudizi vengono meno. Ad esempio, è chiaro che non è un processo di breve termine. Però quando, diciamo, le nostre famiglie così tradizionali, eccetera, avranno capito che non è la presenza di queste unioni alternative, diciamo, o equivalenti a loro non toglie un accidente di niente, né sul piano della libertà, né sul piano dell'esercizio dei loro diritti civili, ecco, col tempo probabilmente questa cosa metterà radici e probabilmente diventeremo un paese un po' più normale. Dopodiché aspettiamo fiduciosi questi referendum abrogativi che stanno già venendo, diciamo, dal mondo propagandati sulla, e non solo, diciamo, anche dalle forze politiche che vogliono avere la sponda clericale, certo, come sempre nella loro storia abbastanza poco lusinghiera, e vediamo come va a finire. Però credo che tu dici, da qualche parte si volta, doveva, sì, iniziare. Okay. Quindi io sinceramente ripeto, questo posso ascriverlo a merito del governo Renzi, comunque è una discontinuità rispetto ad un paese che fa una fatica terribile su determinati temi ad uscire da un buio pesto che lo attanaglia proprio. Ok, caro Alberto. Anch'io condivido la linea dell'incrementalismo. Le argomentazioni confessionali contro la parità dei diritti sono irricevibili e medievali, fammelo dire con un'estrema chiarezza. Però, si è persa un'occasione di parlare seriamente del futuro di un welfare. Alberto, io vorrei farvi vedere i messaggi quando la mattina trattiamo questi argomenti. Arrivano raffiche, significano centinaia e centinaia di sms. C'è un pezzo del paese, non è solo qualche politichetto che crede di far voti, no, che su questo dice, non voglio dire che dicono come Don Livio Fanzaga che sia la zampa del demonio che entra, però che è contrarissimo, cioè che ragiona ancora come se le unioni omosessuali siano il disordine sociale, la perversione. Fammi ribadire che, come ho citato prima, io sono orgoglioso di un Presidente del Consiglio che dice: ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, per me è una cosa importantissima questa. Però fammi dire una cosa da liberale invece, e cioè abbiamo perso l'occasione di ripensare al welfare e a questa commissione pericolosa, posso dirti anche secondo me diseducativa, del peso che lo Stato e la famiglia hanno sul futuro del welfare. Noi abbiamo un paese polarizzato con la ricchezza in mano agli anziani che fanno da sostanzialmente da garante del futuro dei nipoti e dei figli con il loro patrimonio, e stiamo ancora una volta introducendo comportamenti opportunistici, falsando i rapporti sociali con garanzie dello Stato che vengono trasferite per contratti di unione o di matrimonio. Questo è profondamente sbagliato, perché stiamo dando un messaggio ancora una volta in cui il rapporto della famiglia, il rapporto con lo Stato vengono sovrapposti e confusi, e invece dobbiamo fare molta chiarezza su questo. Anche su questo però c'è tutta una storia italiana della famiglia, noi siamo molto in minoranza a vederla così, cioè io avrei fatto una scelta radicale, cioè avrei messo dei paletti massimi e minimi entro la quale la libera statuizione della volontà degli individui di affermare di fronte all'ordinamento la propria volontà di costituire un nucleo stabile nel tempo, entro un massimo, entro un minimo, non andava differenziata per genere. Quindi io non avrei fatto la distinzione tra le unioni omosessuali, le convivenze eterosessuali attenuate. Detto tutto questo, il secondo punto, cioè quello meno criteri di famiglia nel welfare, mi chiedo quello se sia dal punto di vista degli effetti da ottenere adeguato, perché il problema è che noi siamo in realtà diventati il welfare più antifamiglia di tutti i paesi occidentali in termini di effetto combinato dei prelievi contributivi, delle aliquote fiscali e del fatto che noi abbiamo come unica scelta il contribuente individuale come unico soggetto fiscale. Non diamo la possibilità, come negli Stati Uniti, di scegliere tra contribuente individuale o planning familiare fiscale. Non abbiamo altro ordinamento completamente diverso, il quoziente familiare alla francese, non abbiamo un ordinamento di scelta completamente diverso, anche quello, detrazioni altissime come in Germania. Noi abbiamo il peggio del peggio da questo punto di vista, e si vede nella curva demografica. Non abbiamo garanzie all'individuo, scusami, quindi abbiamo un ruolo commisto e non abbiamo garanzie all'individuo. Invece, secondo me, questo andrebbe fatto per questione di principio, altrimenti chi è fortunato ad avere una famiglia ricca, andiamo avanti, esatto. Chi ha le famiglie povere, se è questo che vogliamo ottenere, ascensore sociale, bloccato. Allora, su questo noi abbiamo tenuto al telefono ad ascoltare spostarci su questa nostra constatazione minoritaria, che come vedete, cari ascoltatori, intreccia il costo, ma non solo il costo, intreccia la filosofia di fondo del welfare rispetto alle scelte degli individui, famiglie tradizionali, nuove formazioni sociali come le unioni civili omosessuali e attenuate nei diritti e nella tutela, quelle della convivenza eterosessuale. Abbiamo con noi Giuliano Cazzola, al quale chiediamo una riflessione proprio sul punto: ma possibile che queste scelte si facciano senza guardare dall'altra parte che cosa bisogna fare sul welfare e sui costi? Giuliano, come la pensi? Grazie di averci ascoltato innanzitutto in questo momento. Grazie a voi di avermi invitato. No, io la penso un po' come te, no? Io sinceramente avrei fatto il salto del fosso, nel senso che questa legge in fondo ha un profilo di carattere sessuale, insomma, se contano le attitudini sessuali delle persone. Io credo che occorreva fare magari il salto del matrimonio, no? E anche di persone dello stesso sesso, e considerare le unioni civili qualcosa, diciamo, di un tipo di convivenza diverso. Come è rimasto nei Pax in Francia dopo che hanno fatto il matrimonio? Perché non è, per esempio, non si capisce perché non ci può essere un'unione civile tra, come voleva fare la Bindi, per esempio, no? Tra una vecchia zia e una nipote. E non ci può essere un'unione civile anche tra due persone che non vanno a letto insieme, no? Ma che decidono di convivere tenendo insieme, conducendo una vita comune, no? Qui invece c'è il rapporto che si instaura a letto. Detto questo, io credo che siano un po' forzate queste polemiche che si fanno sui costi della reversibilità. Aspetta un secondo, torniamo tra un minuto e ripartiamo esattamente da questo. Dai conti di reversibilità, però allunghiamo poi oltre questo discorso, pertanto abbiamo un altro quarto d'ora dopo, anche ai diversi pezzi su cui fare il ragionamento: famiglia, unioni civili, scelte individuali, patrimonio ai vecchi. Ecco, queste cose qua. Imposta di successione, posso parlarne? Imposta di successione. Ok, torniamo tra un minuto con Giuliano Cazzola. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci tornati, cari ascoltatori. Sono le 11:37 prima qui ai Conti della Belva, con i compagni dei Conti della Belva, cioè Oscar, Mario, Carlo Alberto. E tra poco arriva anche Renato Cifarelli e con noi Giuliano Cazzola. E abbiamo iniziato a sentire la sua opinione, dopo che abbiamo esposto anche le nostre diverse opinioni. Io ho qualche dubbio su questa nuova articolazione distinta per sesso tra unioni civili e convivenza eterosessuale. Ma abbiamo con noi Giuliano Cazzola, che ha iniziato dicendo che anche lui più o meno la pensa come me da questo punto di vista, però stavamo andando in media stress, cioè sui costi della reversibilità da una parte, ma dall'altra sulla riarticolazione generale che bisognerebbe fare tra famiglia ordinaria, adesso ci sono le unioni civili, le convivenze eterosessuali, che cosa il welfare chiede come struttura contributiva a ciascuno e in cambio che cosa offre di fronte a una società che è drammaticamente, dati Banca Italia, sapete, 15 anni, redditi over 65 passati da 100 a 140, non i redditi, lo stock patrimoniale di ricchezza, perdonate, da 100 a 140 per gli over 65, per gli under 35 da 100 a 60. Quindi un paese con un'enorme frattura sulla ricchezza tra chi è più anziano e chi è più giovane. Allora, Giuliano, eri arrivato al punto di dire sulla reversibilità, sui costi, tutto sommato ragione Boeri, non sarà un granché. Ma c'è una differenza, anche se bisognerebbe forse capire qual è il periodo considerato, tra i conti che fa Boeri e quelli che sono scritti nella legge. Però ecco, la legge è bollinata dalla ragioneria, quindi io credo che noi dobbiamo fidarci. Poi il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge, vedrà se ci sono delle differenze. Però ecco, è molto difficile, io credo, fare dei costi, perché in Italia si celebrano meno di 200.000 matrimoni all'anno, no? Sì. Cioè, la metà, meno della metà di quelli che si facevano negli anni 70. Quindi pensare che oggi a sposarsi contrarre unioni civili siano soltanto le persone omosessuali mi sembra un po' un'esagerazione. Poi tra l'altro bisogna anche che uno dei coniugi, uno degli uniti, diciamo, muoia. Per cui insomma, è come camminare sulle uova, secondo me, a dare dei conti in questa materia, in questa cosa qui. Per quanto riguarda invece le questioni della riforma, di un nuovo concetto di welfare, io per esempio non avevo visto male l'idea che aveva il governo nella legge di povertà, che peraltro recepiva una norma contenuta nella legge di stabilità di quest'anno, che riguardava l'applicazione, diciamo, dell'ISEE come parametro di riferimento del reddito per talune prestazioni, ivi compresa la reversibilità. Poi c'è stata una difesa, no? Una difesa, una levata di scudi generale, non una, si tutti la reversibilità e il governo ha fatto almeno due o tre marce indietro, no? Ma io credo che, per esempio, quello potrebbe essere un criterio importante. Ma scusami, io faccio due provocazioni. Perché oltre all'ISEE non introdurre anche un criterio per la reversibilità, cioè trattamenti ai superstiti, che riguardi l'occupabilità dell'eventuale percipiente sopravvissuto superstite, appunto, e la differenza d'età? Perché, perdonate, a me sembra che non solo non abbiamo sventato l'idea che la badante ventenne sposi l'ottantenne, cosa che capita a metà dell'Italia, ma capiterà anche tra omosessuali, però, adesso, perché non ne faccio una questione di genere, ne faccio una questione che, secondo me, l'omosessuale morente avrà il ventenne che fa l'unione civile e gli dà la pensione, e secondo me entrambe le cose dovremmo evitare. Quindi occupabilità e il numero e differenza di età, no? Sì, c'è però una norma, Giannino, che si chiama norma antibadanti, che prevede che se fra i coniugi c'è una differenza di 20 anni e se il matrimonio non è durato almeno 10 anni, c'è una ritenuta importante del 10%, credo, per ogni anno di differenza. Comunque c'è una ritenuta importante, cioè forse mi sbaglio con la percentuale, anche se questa norma andrà a giudizio della Corte Costituzionale il 31 maggio. Esatto. Quindi vedremo come va a finire. Non c'è dubbio, infatti, che oggi la reversibilità è legata anche al reddito della persona, no? E questo è un altro elemento della persona che la riceve, e questo è un altro elemento che rende molto precari i conti che si fanno sul costo della reversibilità. Ecco, però è molto interessante il dato che tu parlavi per quanto riguarda i patrimoni. Sì. Perché i nostri figli probabilmente, diciamo, saranno dei disoccupati, dei precari. Però ecco, in qualche modo somiglieranno un po' a quelli che nell'Ottocento ereditavano dei patrimoni importanti, perché se tu guardi alla scomposizione della famiglia che c'è sopra, magari a un solo giovane, no? A un solo figlio, no? È probabile, molto probabile, che questo, alla morte, diciamo, dei nonni, dei genitori e via di questo passo, riceva 3-4 immobili in eredità, insomma. Quindi, come nell'Ottocento, no, c'erano le rendite fondiarie, cioè uno ereditava una rendita, no, oggi può essere che erediti un sacco di affitti. Ma a differenza dell'epoca, quando, sia pur in forma censitaria, quindi un percentuale molto più basso rispetto a quanto capitasse oggi, però diventava un avviamento per ventenni o trentenni, adesso, visto le diverse medie di vita, comunque ereditano che avranno 50 anni. Questo è il punto, questo, cioè, sicuramente, quindi, che avranno 50 anni. Quindi diventiamo sempre più un paese a brucia generazioni, come devo dire. Cioè, io preferirei, a quel punto, e li metto in pista, caro Alberto, un paese che fa una scelta secca: siccome io devo liberare patrimoni per trasformarli in flussi, cioè in redditi, questo è il problema di un paese iperpatrimonializzato, devo pesantemente muovere le leve fiscali, cioè io devo pesantemente abbassare le aliquote medie e mediane sui redditi e aumentare le tasse sul patrimonio, compresa quella di successione. Questo, solo che a dirla così la gente esplode. Cito, però ha un senso invece cito farlo. I dati Ocse: l'Italia ha un'imposta successione pari allo 0,04% del PIL, contro circa un decimo della Francia, un quinto rispetto alla Spagna e alla UK, un quarto della Germania, e anche le nostre tasse sulle case, qui da mentire l'odio, che sono raddoppiate, sono comunque un terzo rispetto alla Francia e al Regno Unito, giusto per farvi capire. Quindi ai nostri figli regaliamo delle tasse da pagare, questa è la verità, perché il futuro è quello. E la verità è che abbiamo un patrimonio allocato malissimo, il risparmio più alto del mondo con la peggiore allocazione del mondo. Esatto. E lo stiamo di nuovo confermando con queste forme di welfare raccogliticcio, caro Giuliano. Mi spiace, ma dobbiamo mettere mano a questa cosa. Cioè, la realtà, Giuliano, è che bisognerebbe immaginare un mondo ideale nel quale le grandi leve fiscali, a seconda delle finalità che vuoi perseguire, smobilizzare patrimoni e trasformarli in redditi, e le aliquote contributive per tipo di istituto prestazione e per tipo di soggetto, queste quattro cose fondamentali, sono i quattro angoli sui quali bisognerebbe ridisegnare complessivamente la le Commissione europea pubbliche. È stata chiarissima, bisogna spostare le imposte dal reddito al patrimonio, in particolare al patrimonio immobiliare, a valori di mercato, è stata esplicita nel dirlo. Roberto, tu lo sai che basta che dice che ce lo chiede l'Europa perché automaticamente la gente dice allora non è una cazzata. Chiede, ce lo impone, è diverso, no, capisci? Impone, non impone più niente, guardate che è finita quell'area lì. Giuliano, però il piccolo problema, e qui dobbiamo fermarci con la tua risposta su questo, è che a destra non si vede nessuno che faccia ragionamenti così, o sbaglio? Ecco, io la destra si è messa a fare dei ragionamenti che sono abbastanza incomprensibili. Io trovo, per esempio, molto molto molto singolare alcune prese di posizione degli ultimi tempi, cioè anche su questioni importanti che pure in altri periodi il centrodestra aveva portato avanti. Sì, e per esempio sulle politiche del lavoro, no? Ci sono state prese di posizione del centrodestra che non si capisce se sono, diciamo, per un interventi più spinti o semplicemente per tornare indietro. Per tornare indietro, a me sembra per tornare indietro. Io a volte a me sembra per tornare indietro. Anche a me io fatico a vedere le distinzioni. Per esempio, io trovo singolare questa presa di posizione che la destra fa sull'applicazione della sentenza numero 70 della Corte Costituzionale sulla rivalutazione automatica delle pensioni. Insomma, io credo, esatto, che il decreto 65 del governo in qualche modo abbia sanato la situazione anche rispetto a quello che chiedeva la Corte. No, ma la destra si è messa a inseguire il populismo che a quel punto dice di più, bisogna dare di più. Ah, benissimo, allora destra, sinistra e populismo diventano la stessa cosa. Vince chi è più populista, così. Non è che vince la destra e la sinistra. Guardate cosa è successo in Austria, cari ascoltatori. Quando i partiti tradizionali, socialdemocratici e moderati, hanno creduto di poter scimmiottare quelli di FPÖ, boom, vince l'FPÖ, perché l'elettore è meglio l'originale, c'è l'originale alla copia. In Italia si corteggiano sempre le idee delle forze, diciamo, extrasistema, no? Sì. Abbiamo dedicato anni al federalismo, no? Di cui oggi nessuno parla più, no? Perché si pensava che questo portasse i voti, perché lo diceva la Lega. Poi ci siamo tutti buttati sull'antipolitica, perché Grillo è nato con l'antipolitica. E adesso, no? Ricentralizziamo tutto. E questo pendolarismo che non ci fa neanche prendere il meglio di quelle idee, non ci fa prendere in nulla, ci fa solo accumulare contraddizioni, ohimè, è un altro pezzo della crisi italiana. Grazie a Giuliano Cazzola, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo. Conti della Belva. Ragazzi, raffiche come se piovesse, sì, di 20 e 40 millimetri. Li abbiamo rianimati. Ma no, perché il problema è che ma è chiaro che noi parliamo di un brutale abbattimento dell'aliquota media minima di quella dei redditi in cambio di una revisione di quella successione. No, perché voi reagite come se io aumentassi le tasse. Vi pare possibile? No, ma guarda, è la filosofia dietro. Però io lo so che Carlo Alberto, che ha deciso di trollare gli ascoltatori che erano stranamente quieti, ha detto adesso ci penso io. È stata una raffica. Allora, Marcella da Pescara, prego. Marcella. Salve, buongiorno. Buongiorno. Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie, venga. Io volevo porre l'attenzione un attimo su un aspetto del quale non so se si è parlato finora. Sempre l'argomento riguarda sempre gli omicidi di coppie di fatto, di cui si parla esclusivamente come eventuali costi da considerare per ciò che riguarda le conseguenze, tra le possibilità, eccetera. Marcella, e devo dire che per colpa né sua né nostra, però la qualità del collegamento è orrenda, quindi proviamo intanto a richiamarla. E nel frattempo è con noi Renato Cifarelli. Renato, come stai? Buongiorno, volevo farvi i complimenti per la trasmissione. Sì. Guarda, posso dirti una cosa, Renato? Siccome è arrivato uno dei nostri abituali messaggiatori che ha detto: come mai in questa trasmissione condotta da tre qua l'unico uomo vero parla solo per 5 minuti? Ecco. Io volevo girare a te questa domanda. Ce l'avevano con te, uomo vero! Chi è l'uomo vero? L'uomo che non deve chiedere mai, sei a bordo tu. Della sua Harley. A bordo, sì, ragazzi, allora, ragazzi. Dopo che... Buongiorno ragazzi, posso per una volta parlare di una cosa positiva? Dai, visto che sto passando una bella mattinata. Bravo. Perché spesso parliamo di sussidiarietà, cioè le cose che non fa lo Stato lo facciano i privati. E tu la stai facendo. Stamattina in azienda abbiamo un bel 40 ragazzini che stanno facendo un Coder Dojo, che è un movimento internazionale in cui attraverso dei mentor si insegna ai ragazzini a programmare gli Arduino, a fare i giochi e cose di questo genere, e sta venendo fuori una cosa veramente molto bella. E visto che non sempre, o quasi mai direi, la scuola fa queste cose, mi fa piacere che i privati le facciano. Quindi tu sei in questo momento vestito da orco? Che giochi con i bambini? Infatti prima ho detto ai bambini che di solito me li mangio, perché sono vestito di rosso, perché il colore aziendale è rosso, quindi sono comunista oggi. Allora mangio i bambini. Ma vedi che bella cosa. Comunque, no, è una cosa molto... Ci tenevo a dirlo perché ci sono un sacco di persone che si occupano di Coder Dojo in tutta Italia e che dedicano il loro tempo ai ragazzini, e quindi mi sembra anche giusto riconoscerlo. Ma da dove vengono? I ragazzini che ci sono qua oggi lo facciamo con un gruppo di Milano e un gruppo di Voghera. Perfetto, sì. Dicevi, allora? Allora, per fortuna non ero in studio, perché stamattina sarei stato un po' polemico con voi quando si parlava di Cina ed economia di mercato. Lo so. No, allora, il discorso è che io sono assolutamente contro i dazi, perché chi ha un'azienda che esporta il 90%... Vai al ma. No. Mi sta benissimo che la Cina diventi un'economia di mercato nel momento in cui non è per la maggior parte sussidiata. Sì. E volevo fare notare che mentre la Unione Europea non riconosce la Cina come economia di mercato, principalmente, sappiamo tutti, per il discorso dell'acciaio, c'era una notiziola stamattina sul giornale che l'Unione Europea sta avviando una procedura verso l'Italia per degli aiuti di Stato anche ad un'azienda di acciaio. Ma no, lì il vice-proprio giudizialmente, ce ne sono già, l'istruttore è aperta già per 800 milioni, adesso si fa anche per i 300 milioni del finanziamento ponte. Quindi, però capisci che, quindi, come vedi, io ti potrei intuzzare dicendo: scusa, ma noi che per primi pretendiamo i sussidi, li pratichiamo, diciamo che Atlante è privato perché lo Stato non c'è lo Stato dietro, lo scrive il Corriere della Sera. Allora, non è che sia pro-Atlante. No, ma per dire che non è che l'Italia mi sembra in queste condizioni di dettare la linea. Comunque abbiamo un made in Italy straordinario, fatemelo dire. Ieri sera ero in Val di Chiana ad Arezzo a discutere purtroppo di banche non esattamente risanate, no? Vabbè. Finalmente mi si presenta Johnny the Butcher, devo dirlo, scusa, no, Johnny the Butcher perché il Gianni Buccianti, un macellaio fantastico, dice: c'ho io la soluzione Johnny per le banche etrusche. La mannaia. Mi si è presentato con una finocchiona da urlo, questa fare suscitare i morti, altro che Atlante. La finocchiona di Gianni Buccianti non dovete metterla, dovete affettarla e sentire il profumo del finocchio, quello sì, del finocchio selvatico, oltre che unioni civili, ragazzi. Ho capito, vedo che siamo degenerando. Carlo Alberto trolla anche i vegani. Carlo Alberto è l'attacco di tutto, l'attacco di tutto. Marcella, ovviamente noi rimaniamo, la chiamiamo sabato oppure quando ci dica lei adesso in quale trasmissione intervenire, però la richiamiamo perché siamo rimasti appesi con lei e ci doveva fare una domanda, credo sull'IMU, da quello che mi hanno detto, IMU Unione Civili. Comunque grazie dell'ascolto e Conti da Belva, appuntamento domani lunedì mattina, perdonatemi, 8:15 con me Alessandro Milana, ad attenti a noi due. L'Italia, l'Italia, l'Italia, l'Italia.